Noi prendiamo in considerazione l'arco che va dal 1975 al 1980 per spiegare perché Bologna non è un fulmine a ciel sereno, come a lungo si è sostenuto, ma ci sia tutta un'attività preparatoria che porta poi alla strage del 2 agosto 1980. Un'attività preparatoria che prevede due piani di azione. Il primo è quello che entra in gioco, diciamo, tra la fine del 78 e in particolare a partire dal febbraio del 79, che è quello dei mandanti e dei finanziatori, che iniziano appunto a drenare denaro dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e a destinarlo ad una serie di persone che poi avranno un compito da un lato funzionale e organizzativo e dall'altro anche di preparare il depistaggio mediatico. E poi c'è invece quello più militare operativo, che è quello delle organizzazioni neofasciste. Gli ultimi processi che sono stati celebrati, in particolare il processo Cavallini, che è stato concluso il processo d'appello e si attende probabilmente entro l'anno la Cassazione, e poi il processo Bellini, che in appello è andato a sentenza lo scorso 8 luglio, raccontano molto bene tutti i movimenti che vennero fatti in quegli anni, e in particolare poi nel biennio più caldo, che è appunto quello tra il 78 e l'80, in cui vediamo una leva di giovani neofascisti, una seconda generazione che inizia a farsi notare, ma vediamo poi le tradizionali organizzazioni della versione neofascista, in particolare Ordine Nuovo, ma anche con la presenza di Avanguardia Nazionale, che si occupa dell'indottrinamento e della formazione militare di questi giovani. Quindi, insomma, in generale possiamo dire che, come dire, il vostro libro interviene anche su quella che era considerata, cioè c'era una convinzione, cioè che la strategia della tensione fosse terminata a metà degli anni 70, e dimostra che così non è. Esattamente, noi interveniamo su questo tema. Quando Cinzia e io abbiamo cominciato a ideare il libro, volevamo appunto smentire che la strategia della tensione fosse finita nel 1974 con le stragi di Brescia e dell'Italicus, e poi le due che vennero organizzate ma non andarono a buon fine. Diciamo che la svolta degli anni 70 sicuramente cambia dal punto di vista dell'approccio politico al stravolgimento delle istituzioni repubblicane nate dalla lotta antifascista, ma dal punto di vista militare rimane molto molto simile, appunto con questi attentati che si fanno sempre più frequenti, dalla notte dei fuochi di Rovigo nel 1978, l'attentato all'abitazione veneta di Tina Anselmi, e poi i grossi attentati stragisti, per quanto non abbiano fatto vittime, perché si era ancora in una fase di rodaggio e di affinamento delle tecniche d'assalto, che hanno caratterizzato Roma. Già dal titolo, Operazione Bologna, il vostro libro rimanda, immagino, al fascicolo trovato a Licio Gelli, che testimonia il coinvolgimento della P2. Sì, di P2 nel libro si parla ovviamente tanto, di come appunto Licio Gelli, ma anche Umberto Ortolani, si siano mossi da un punto di vista economico-finanziario e sostanzialmente dal nostro punto di vista con l'obiettivo di una trasformazione dell'assetto istituzionale italiano, probabilmente modificandolo verso un premierato forte alla De Gaulle, probabilmente anche un po' più accentuato rispetto a quello che è stata l'esperienza di De Gaulle, e poi Operazione ha anche lo scopo di indicare, di fare emergere quella che è la vera natura della strage di Bologna, cioè di essere stata un'operazione militare. Tutti questi elementi, questi tasselli si stanno, diciamo così, componendo anche e soprattutto negli ultimi anni, anche con gli ultimi processi, no? Sì, esatto. Gli ultimi processi, diciamo che sono stati fondamentali, e in particolare il cosiddetto processo Mandanti, che ha visto, insomma, che è stato fortemente voluto dalla Procura Generale di Bologna quando avvocò l'indagine a un passo dall'archiviazione, e da lì, appunto, attraverso tanti testimoni che sono stati sentiti, tanti documenti che sono stati acquisiti agli atti del processo, noi questa storia la possiamo raccontare non più sulla base di deduzioni logiche nell'osservazione del periodo, ma con dati di fatto. Tu che hai seguito questa vicenda, insomma, da molto tempo, quali sono stati gli elementi che hanno sbloccato poi i processi o comunque il lavoro di ricerca per arrivare a comporre il puzzle? Allora, fondamentale è stato il lavoro dell'associazione vittime, dei suoi consulenti e dei suoi legali. Non dimentichiamo che il cosiddetto documento Bologna, quello che venne trovato addosso a Gelli quando fu arrestato in Svizzera, è frutto di una prima intuizione di Claudio Nunziata, un ex pubblico ministero della Procura di Bologna che è andato in pensione e ha continuato a lavorare su questi documenti e ha rinvenuto il documento Bologna, questa sorta di contabile dei soldi che sono andati a varie persone coinvolte poi nell'attentato del 1980, ha iniziato a valorizzarlo. A valorizzarlo perché per l'elemento poi Bologna nel nome proprio del documento, un documento che appunto giunse in Italia nell'87 quando Gelli era già imputato per i depistaggi alla strage alla stazione di Bologna, che non venne mai trasmesso. Per cui prima di arrivare a delle mosse giudiziarie vere e proprie occorre rendere merito al lavoro di questi consulenti che tra il 2011 e il 2013 hanno continuamente depositato memorie in procura e in seconda battuta appunto ai magistrati della procura generale, che nel momento in cui è stata chiesta l'archiviazione per il cosiddetto filone mandanti della strage alla stazione di Bologna hanno analizzato la situazione e hanno deciso, con l'avallo del procuratore generale di allora, il dottor De Francisci, di procedere e di andare a vedere se effettivamente era stato fatto tutto oppure si potevano fare ulteriori accertamenti, cosa di cui loro erano convinti e poi avranno conferma nel corso delle indagini. A questo punto cosa manca per la piena verità su quanto accaduto? Ma diciamo che va contestualizzata meglio la situazione politica, nel senso che ovviamente Gelli era per quanto di estrema rilevanza una pedina in tutto questo gioco. Sono stati individuati altri uomini dello Stato che hanno collaborato con lui, come Federico Umberto D'Amato, che fu a capo dell'ufficio affari riservati e poi della polizia di frontiera, un ex parlamentare del Movimento Sociale che era poi anche un giornalista, Mario Tedeschi. Occorre andare a capire quanto la rete delle complicità istituzionali fosse ulteriormente estesa.